su quella sedia dovrai tuonare, tuonare sulla pelle del piano nel murario, nel mirare le tue tasche sole al bivio, al bivio. Ti chiederai come suonare il tuo brio lirico, lirico, lirico. Su quella sedia dovrai tuonare, tuonare la pelle del piano nel murario, del mirare le tue tasche sole al bivio, al bivio. Ti chiederai come suonare il tuo brio lirico. Su quella sedia dovrai tuonare, sulla pelle del piano nel nulla un brivido, del mirare le tue tasche sole al bivio. Ti chiederai come suonare il tuo brio lirico. Lirico. Suonare il tuo brio.